Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Si amplia lo scontro tra Roma e Bruxelles sotto la lente della Commissione per aiuti di Stato anche l'Ilva dopo il no al salvataggio della Cassa di Risparmio di Teramo. Inaugurate a Pompei 6 domus restaurate, protesta di Confesercenti che chiede che il sito resti aperto anche a Natale e Capodanno. Inquinamento, altre città aderiscono al blocco del traffico proclamato a Milano, tra cui Pavia, e arriva in questo momento la notizia che il blocco ci sarà anche a Roma. Il commissario Francesco Paolo Tronca ha disposto il blocco totale all'interno della fascia verde per 2 giornate consecutive, ossia lunedì 28 e martedì 29 dicembre, sempre dalle 10 alle 16, proprio come a Milano. Dopo il via libera alla risoluzione ONU, Italia, Francia e Gran Bretagna sarebbero pronte a bombardare in Libia. Il caso strano dell'aumento dei morti in Italia. Alla fine dell'anno potrebbero essere l'11% in più rispetto al 2014. I demografi si interrogano. Le ultime frenetiche ore di chi non ha ancora comprato tutti i regali. Qualche consiglio partendo dal più banale: non fatevi prendere dall'ansia. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il consueto punto di Radio 24 a metà giornata su quello che succede in Italia e nel mondo. Buona vigilia di Natale a tutti, naturalmente, anche a coloro che arriveranno e che ogni tanto ci scrivono dicendo che indulgiamo qualche volta a qualche argomento poco serio, un po' più leggero. Oggi lo faremo un po' ampiamente del resto della vigilia di Natale. In apertura però torniamo ad occuparci delle vicende delle banche e dello scontro tra Bruxelles e Roma, che verte a questo punto su due fronti: le vicende degli istituti di credito e il salvataggio dell'Ilva. Sentiamo. Prima la diffusione della famosa lettera di diniego all'intervento del Fondo Interbancario di Garanzia dei Depositi, poi un'altra bocciatura, quella della quinta banca in difficoltà, l'abruzzese Tercas, infine la notizia di una lettera formale all'Italia con cui si preannuncia l'apertura di una procedura di infrazione per finanziamenti forniti all'Ilva. È scontro vivo tra Roma e Bruxelles sul tema degli aiuti di Stato. Per quanto riguarda Banca Tercas, la reazione del Tesoro è stata immediata. Il piano B è già pronto, scrive Via 20 Settembre in una nota, grazie all'intervento volontario di privati con un fondo creato ad hoc e che ha già ricevuto l'adesione del 98% del sistema. Insomma, la bocciatura non avrà nessuna conseguenza negativa, mentre fonti del Ministero mettono subito in chiaro come la soluzione adottata per le 4 banche in crisi in realtà, a dispetto delle critiche, non avesse alternative. Non si poteva usare il fondo perché, pur trattandosi di soldi privati, la Commissione, modificando il proprio orientamento, ha parificato il suo utilizzo ad una misura di supporto pubblico in ragione dell'obbligo imposto dal governo. Controffensiva dell'esecutivo anche sull'Ilva. Noi siamo sicuri di aver fatto tutto quello che si dovesse fare per salvare la principale azienda siderurgica del paese, afferma il ministro delle infrastrutture Delrio. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E sulle vicende delle banche, in particolare ovviamente sulla Popolare Etruria, sulla quale si concentra l'attenzione, proseguono le indagini. Un punto con Daniele Morini in diretta con noi. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno. Infatti potrebbe esserci anche una nuova ipotesi, un'ipotesi di truffa accanto al reato di istigazione al suicidio nell'inchiesta aperta dalla magistratura dopo la morte di Luigino D'Angelo, il pensionato di Civitavecchia che si era tolto la vita, lo ricorderete, il 28 novembre scorso, dopo aver scoperto che il suo investimento, la somma investita in obbligazioni subordinate di Banca Etruria, erano andati completamente in fumo. Ieri le fiamme gialle hanno perquisito la sede dell'istituto di credito nella città laziale. La procura locale vuole chiarire perché un prodotto finanziario con rischi così elevati sia stato venduto a un risparmiatore come il settantenne che poi si è tolto la vita. Il pubblico ministero vuole sapere anche se l'uomo fosse a conoscenza di tutti i dettagli e le clausole previste dalla sottoscrizione e poi che fine avrebbe fatto una lettera, lo dice la moglie del pensionato, con la quale lui stesso chiedeva alla banca di poter vendere le obbligazioni acquisite nel 2013 per una somma di circa 110.000 euro. Una domanda, quella del pensionato, accorata, che sarebbe però finita nel dimenticatoio, in un cassetto senza essere ascoltata. Daniele Morini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, linea allo studio. E grazie a Daniele Morini per questo aggiornamento. Noi adesso ci spostiamo a Pompei, dove oggi alla presenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e del Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini vengono inaugurate 6 domus restaurate, tra l'altro con qualche polemica. Abbiamo in diretta Laura Viggiano che sta seguendo la cerimonia. Laura, buongiorno. Sì, buongiorno. Dato il marchio di fabbrica del terrorismo, cioè l'attacco alla cultura, secondo il Premier Renzi, essere già oggi qui a Pompei è davvero un modo molto bello per augurare un buon Natale. Ha iniziato così il suo intervento poco fa nella cerimonia nella Basilica degli Scavi di Pompei, iniziata intorno alle 13 dopo la visita appunto del Presidente Renzi e del Ministro Franceschini agli edifici restaurati. Giovanni Missi, responsabile del grande progetto Pompei, Pompei ha fatto il report dei fondi utilizzati a fronte dei 105 milioni concessi dall'Unione Europea. Sono stati aggiudicati lavori per 127 milioni di euro con contratti giuridicamente rilevanti per 70 milioni, ha detto Nispi. Lavori che procedono con 1 milione di euro di spesa a settimana, con nessuna gara che sfora il quadro economico stabilito. Oggi si inaugura il restauro di 6 domus situate a ridosso di Via dell'Abbondanza e visitabili ai turisti già da oggi a partire dalle 13, interessate da un'attività di restauro architettonico e degli apparati decorativi e quindi da una messa in sicurezza per la salvaguardia del sito. Tra i 6 edifici vi è uno dei più importanti laboratori per il lavaggio ed il trattamento dei tessuti, il lussuoso criptoportico e la casa di un influente pompeiano, Pacilius Proculus, appunto insomma sono tutti lavori finanziati con il grande progetto, in questo caso per circa 2 milioni di euro. Finanziamenti che, lo ricordiamo, devono passare la prova del Banco Europeo per la spesa effettuata, che pone un rischio, ma secondo indiscrezioni pare che l'Italia avrà una sorta di proroga per la rendicontazione della spesa. È tutto. E grazie a Laura Vigiano per questo aggiornamento. Noi passiamo all'estero, innanzitutto con una notizia di poco fa, di questa mattina, della nuova tragedia del mare al largo della Turchia. 8 migranti, tra cui 6 bambini, sono affogati nel naufragio di una barca al largo di Izmir nell'Egeo, lo riporta l'agenzia DA, mentre la Guardia Costiera riferisce che ci sono anche 12 dispersi, e su questo andremo ad aggiornarvi naturalmente appena avremo ulteriori informazioni. Intanto passiamo a parlare di Libia, perché dopo il via libera arrivato ieri alla risoluzione delle Nazioni Unite, riferisce oggi il quotidiano La Stampa che Italia, Francia e Gran Bretagna sarebbero pronte ad un passo a bombardare la Libia, addirittura a partire quindi con dei raid. Ne parliamo con Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa e commentatore di questi fatti anche per il Sole 24 Ore. Gianandrea, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno, buongiorno a voi e tanti auguri anche ai radioascoltatori. Senti Gianandrea, ovviamente auguri a te. Ascolta, ti sembra possibile che si possa partire così rapidamente, insomma, e che l'Italia possa partire con un'azione che viene descritta nella sostanza come una vera e propria azione di guerra, così, in tempi così rapidi? Ma le fonti governative italiane hanno parlato sempre, ma anche quelle militari, di italiano per garantire la sicurezza delle istituzioni a Tripoli del nuovo governo che si sta formando, che si dovrà entro il prossimo mese, e anche di un supporto per l'addestramento delle nuove, questo nuovo esercito libico che dovrebbe un giorno fronteggiare chissà mai le forze dello Stato Islamico che cominciano a dilagare in tutta la Libia. Quelli che invece parlano più esplicitamente, almeno con, anche attraverso indiscrezioni da fonti ufficiali, sono invece Gran Bretagna e Francia, che parlano già di impegno bellico contro lo Stato Islamico in Libia. Già la Francia ha fatto delle ricognizioni con gli aerei che sono sulla sua portaerei, la Charles de Gaulle, che è nel Mediterraneo orientale, che operano questi aerei sia sulla Siria, ma hanno fatto anche ricognizioni su Sirte. Insomma, io credo che ci sia, da quello che si può intuire oggi, una disponibilità franco-britannica a usare i muscoli in Libia, e per l'Italia invece una disponibilità a fare un'azione, diciamo, di supporto alle nuove istituzioni libiche. Attenzione, perché già nel 2011 le iniziative nazionali, vogliamo dire unilaterali, franco-britanniche, furono poi all'origine di quel disastro che fu quella campagna militare condotta anche dalla NATO che fece cadere Gheddafi e lasciò la Libia nel caos. Nel caos più completo. Ascolta Gianandrea, tra l'altro nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, sono circolate voci sulla presenza di operativi italiani già sul territorio, e quando parliamo di operativi ci riferiamo, come dire, a persone del dell'intelligence e che probabilmente stanno anche mettendo a punto parte di questa strategia militare che dovrebbe portare, come dire, a una pacificazione della situazione in Libia. Ti sembra credibile che ci siano nostri uomini sul terreno? Ah, le indiscrezioni le fece, le diffuse il giornale Il Foglio, la difesa smentì, ci stanno entrambe le cose, ci sta che la difesa smentisca anche una presenza che in quel momento, prima della firma dell'accordo per un nuovo governo, poteva risultare un elemento di disturbo, visto il negoziato in corso. Di certo dovremmo avere sul territorio gli uomini dei nostri servizi segreti, così come ce li hanno francesi, inglesi e altri. Le uniche forze speciali che sono state sorprese in Libia sono quelle americane, giunte qualche giorno fa, pare che il loro obiettivo fosse quello di attaccare la base dell'ISIS, il campo di addestramento a Sabratha, vicino al confine tunisino, però diciamo le forze libiche che dovevano sopportarli non si erano messi d'accordo e alla fine li hanno ricacciati, gli hanno detto andatevene e questi se ne sono andati. Però è chiaro che qualunque operazione militare in preparazione prevede già da oggi la presenza di osservatori, di quelli che vengono chiamati i gruppi avanzati, che facciano una ricognizione, che facciano un report sulla situazione di sicurezza e forniscano informazioni. Tra l'altro l'Italia da qualche tempo ha avuto l'autorizzazione con il decreto legge a impiegare le forze speciali delle forze armate, quindi militari, in supporto ai servizi di intelligence, e quindi insomma io credo che se non l'abbiamo ancora fatto lo dovremo fare. Lo dovremmo fare molto, molto rapidamente. Gianandrea, un'ultima domanda, i tempi sì. Quali potrebbero essere? Secondo te? Dipende da quale credibilità avrà questo nuovo governo libico, se veramente nascerà entro un mese, se veramente la gran parte delle milizie, che sono decine le milizie tribali libiche, qualcuno dice addirittura centinaia, supporteranno, appoggeranno questa nuova iniziativa. Già con il mese di gennaio potremo vedere arrivare qualche unità militare, quantomeno di ricognizione. Se invece questo accordo resterà sulla carta, il rischio è abbastanza concreto, e non si concretizzerà, beh, allora qualunque tipo di intervento nell'ottica di quello che l'Italia ha detto di voler fare potrebbe risultare più complicato. Grazie a Gianandrea Gagliani, direttore della rivista Analisi Difesa, naturalmente auguri. Parliamo di smog adesso, e dato che siamo all'estero iniziamo dall'estero, perché dopo Pechino molte altre città cinesi hanno deciso di far scattare per la prima volta l'allarme rosso per i tassi elevati. La provincia di Shandong, nella parte orientale del paese, ha emesso avvisi in 4 città dopo aver avvertito che la densità di particolato nell'aria è da oltre 24 ore superiore ai limiti. Scattate le misure di contenimento, chiuse tutte le scuole, fermate attività e lavori di costruzione. Allarme rosso anche a Hebei, una provincia che confina con Pechino, mentre a Qingdao e Handan sono scattati i blocchi del traffico. E a proposito appunto di blocchi del traffico, c'è la notizia che vi riferivamo nei titoli e che è appena stata battuta dalle agenzie. Anche a Roma, come a Milano, sono stati presi provvedimenti di questo tipo contro l'inquinamento. Il commissario Francesco Paolo Tronca ha disposto il blocco totale della circolazione all'interno della cosiddetta fascia verde per 2 giornate consecutive, lunedì 28 e martedì 29 dicembre, dalle 10 alle 16. A Milano, lo ricordiamo, invece è arrivato ieri il provvedimento che stabilisce il blocco sia lunedì 28 che martedì 29 che mercoledì 30, sempre dalle 10 alle 16 in città, un blocco al quale stanno aderendo molti comuni della Lombardia. Il più grande che finora ha aderito è quello di Pavia. Di questo parleremo tra un attimo, lo faremo con un esperto anche per capire se davvero questi blocchi servono a qualcosa, non solo per ridurre il particolato ma poi per cambiare anche l'impostazione mentale di chi si muove in auto. Con questo clima un po' soffocante passiamo ad argomenti più leggeri, si procede agli ultimi acquisti per Natale. Se siete arrivati all'ultimo minuto, la nostra prima raccomandazione è calma. Tesoro, non fa niente, non devi darmi nulla in cambio. Ma certo che devo, è alla base di questa usanza che io ora debba uscire a cercarti un regalo di valore proporzionato e che rappresenti lo stesso livello percepito di amicizia simboleggiato dal regalo che tu hai fatto a me. Non mi stupisce che il tasso di suicidi vada alle stelle a Natale. Comunque la pensiate sui regali di Natale, una cosa è certa: se siete ancora in giro in cerca di ispirazione siete messi male. Quindi calma e sangue freddo, l'importante è avere le idee chiare. Partiamo dai colori, oro, nero e rosso, inflazionati. Scegliete i colori del 2016, li ha appena resi noti la massima autorità del settore, la Pantone, dizione all'italiana dell'azienda americana. rosa quarzo e azzurro serenità. Per i più piccoli andate sul sicuro, Star Wars domina i regali di Natale anche per le bambine, così non rischierete di essere accusati di sessismo regalando una Barbie. Senti, mi serve il tuo volopattino Overlord. È un volopattino! Da Guerre Stellari a un altro film cult, Ritorno al futuro, che ispira l'oggetto tecnologico dell'anno, oltre a droni, smartwatch e braccialetti fitness. Si tratta dell'Overboard, lo skate elettrico autobilanciante, nuova versione del monopattino elettrico già popolare oltreoceano, ma occhio ai prezzi e alla sicurezza. In alcuni modelli low cost è stato riscontrato un rischio incendio per le batterie. Per mantenere l'ispirazione e spendere molto meno, nel trentennale del primo film va bene la trilogia in DVD o Blu-ray. Sì, al regalo utile per parenti e amici, all'insegna della regina delle tendenze, la sostenibilità. Originali gli accessori per la bicicletta, vero e proprio must dell'antispreco, la macchina sottovuoto per alimenti. Expo 2015 insegna. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un aggiornamento sul naufragio a largo delle coste della Turchia, a largo di Izmir, è salito a 19, di cui 6 bambini, appunto il bilancio delle vittime soccorsi che hanno tratto in salvo 21 persone, sono ancora alla ricerca di possibili sopravvissuti o comunque di dispersi. Vedremo quali aggiornamenti avremo più avanti. Intanto noi ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade in questa seconda parte della trasmissione. Apriremo parlando proprio di inquinamento, per parlare con un esperto e capire se questi blocchi del traffico servono davvero a qualcosa, e poi ci occuperemo di una cosa della quale vi accennavamo già nei titoli, un tema sollevato da un demografo, il quale, quindi, che si occupa dello studio della popolazione, ne ha fatti specie lo studio della popolazione italiana, e che ha scoperto che quest'anno sono morti molti più italiani rispetto agli anni passati, un più 11% addirittura, e naturalmente lui, come molti altri, si stanno interrogando sulle cause di tutto questo, e proprio la persona che ha sollevato la questione sarà ai nostri microfoni tra poco. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: inquinamento, anche Roma ha disposto il blocco del traffico, sarà lunedì e martedì tra le 10 e le 16, altre città aderiscono invece al blocco proclamato da Milano e che comprenderà anche la giornata di mercoledì, tra queste città c'è anche Pavia. Si amplia lo scontro tra Roma e Bruxelles, sotto la lente della Commissione per aiuti di Stato anche l'Ilva dopo il no al salvataggio della Casa di Risparmio di Teramo. Sono state inaugurate a Pompei 6 domus restaurate, mentre c'è la protesta di Confesercenti che chiede che il sito archeologico resti aperto anche a Natale e Capodanno. È proprio con un responsabile di Confesercenti ci collegheremo più avanti. Via libera la risoluzione ONU, Italia, Francia e Gran Bretagna sarebbero pronte a bombardare la Libia, lo scrive il quotidiano La Stampa. E siamo a parlare dunque di inquinamento. L'ultima notizia ve l'abbiamo data appunto anche nei titoli, abbiamo qualche dettaglio in più. A Roma ci sarà il blocco totale del traffico dalle 10 alle 16 nelle giornate di lunedì 28 e martedì 29 dicembre all'interno della cosiddetta fascia verde. Per sapere esattamente quali sono i confini basterà fare un giro su internet e cercare fascia verde Roma, così avrete più chiaro di che cosa si tratta. Comunque un'area molto vasta. In quella giornata, durante le due giornate di stop, saranno emessi dei biglietti speciali chiamati EcoBit dal costo di 1,50 euro, che avranno validità giornaliera e non i canonici 90 minuti per i quali valgono sempre. Saluto l'architetto Giuseppe Piras della Rete Mobilità Nuova. Buongiorno architetto e benvenuto. Buongiorno a tutti. Serve a qualcosa? Serve, sì, sicuramente serve. I dati ci dicono che il traffico, insomma, la mobilità motorizzata pesa per dal 50 all'80% sugli inquinanti, quindi la causa è sicuramente quella. Chiaramente serve un blocco che sia reale, che duri nel tempo, che dia anche il tempo alle particelle di depositarsi, poi magari seguito anche dalla pulizia delle strade. chiaramente serve negli orari in cui il traffico c'è. Ma quindi, Pira, se è un po' un mito questo secondo il quale la gran parte del particolato arriva dalle caldaie? È abbastanza un mito. I calcoli dicono che incida per un 10%. Chiaramente c'è l'abbinamento caldaie-inverno, ma quello è un problema di inversione termica, per cui gli inquinanti rimangono più in basso perché le condizioni meteorologiche non fanno sì che si disperdano, e quindi è in concomitanza con l'inverno, ma non è detto che il motivo appunto siano le caldaie. Fa sorridere sentire che si vuole vietare il forno a legna per la pizza quando noi abbiamo appunto... Ah sì, sì, sì, quella è una decisione. Quella è una decisione presa da un sindaco del Napoletano, il sindaco di San Vitaliano, che ha deciso di far spegnere tutti i forni delle pizze. Tra l'altro stamattina l'abbiamo cercato il sindaco di San Vitaliano, ma abbiamo appreso che oggi è lutto cittadino, quindi è sostanzialmente irraggiungibile fino alle 3 del pomeriggio. Senta, architetto, lei ha anche un esempio interessante che ci può portare su questo punto. Allora, il blocco del traffico di 2 giorni, in sostanza, che effetto produce nei cittadini? Li fa imbestialire, questo per dirla molto, molto brutalmente. In realtà ci sono esempi dall'estero che ci dimostrano che questo blocco del traffico ha effetti benefici anche sulla cultura dei cittadini nel momento nel quale viene accompagnato da un'opera di comunicazione. E c'è l'esempio di Monaco di Baviera. Ci spiega un po' che cosa viene fatto? Sì, allora, appunto il blocco del traffico è vero che fa imbestialire le persone, ma serve anche per creare coscienza. Chiaro che farlo così senza averli preparati in qualche modo al condividere anche una strategia è sempre molto rischioso. L'esempio di Monaco è sulla ciclabilità. Monaco ha fatto questo programma importante di investimenti sulla ciclabilità da 10 milioni, ma 2 milioni sono stati destinati alla comunicazione. Questo perché qualsiasi operazione, sia che riguardi l'inquinamento, il traffico o altri interventi sulla mobilità, ha bisogno di essere comunicata e ha bisogno di coinvolgere i cittadini. Loro hanno fatto un esperimento molto interessante, che è quello di trasformare i cittadini nei testimonial di questa campagna, quindi attraverso delle campagne fotografiche in cui li ritraevano e poi venivano utilizzati come appunto immagini pubblicitarie di questa operazione, ma anche altre cose, proiettare sui monumenti il simbolo della bicicletta o disegnarlo per terra. Se i nostri sindaci, i nostri amministratori decidessero di fare una vera campagna, anche giocando sull'orgoglio dei cittadini, perché poi anche quello, no? Trasformare le nostre città in città dove si respira bene. Cioè, mi scusi, il concetto che esprime lei è questo: un giorno di stop non serve a nulla, o 2 giorni di stop non servono a nulla se non sono accompagnati da una spiegazione, e quindi ai cittadini glielo fai d'amblè, così giustamente si arrabbiano, si infastidiscono, e dall'altra parte ci vuole anche una sorta di, chiamiamolo così, follow up, cioè di un seguito a questa operazione, nella quale magari gli dici: avete visto che la cosa che si può fare anche senza auto, potete girare anche senza auto. Questo è il concetto? Sì, il concetto è questo. Serve essere soprattutto molto onesti. Ci sono dei dati. Quanto ha investito Monaco in comunicazione? 2 milioni di euro per una campagna di 2 anni. 2 milioni di euro per una campagna di 2 anni. Non dico di arrivare a queste cifre, ma meglio qualcosa. Sì. Grazie all'architetto. Prego. Giuseppe Piras, le auguro una buona giornata e saluto Giancarlo Blangiardo, che è professore di demografia all'Università Bicocca di Milano. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. L'abbiamo chiamata perché è lei che ha sollevato la questione, lo ha fatto prima con un articolo su Avvenire e poi su Neodemos, che è appunto un sito online che si occupa di demografia, Neodemos, popolazione, società e politica. Cosa succede? Succede che nel 2015 gli italiani, ci sono stati più italiani che sono morti, in maniera anomala, con una crescita anomala rispetto alla tendenza degli ultimi anni. Ci dà qualche cifra per farci capire che cosa succede, professore? Diciamo che l'osservazione dei dati, quindi la frequenza dei decessi nei primi 8 mesi del 2015 confrontata rispetto agli stessi mesi del 2014, mostra un aumento che è dell'11% circa. Il che vuol dire che su base annua, se questo dovesse confermarsi anche negli ultimi 4 mesi, ed è verosimile che possa succedere, arriveremo ad avere quasi 70.000 morti in più rispetto all'anno 2014, il che ovviamente fa riflettere. Più 11%, quindi è appunto è notevole, insomma, una crescita fortissima. Ma come mai questa anomalia, professore? Allora, intanto due cose. È un'anomalia che si registra quasi in tutti i mesi. Forse maggio, ecco, maggio tutto sommato è il mese come più mite, in cui c'è in qualche modo un valore molto simile a quello dell'anno prima, ma in tutti gli altri mesi è superiore al 2015. Seconda cosa, è una situazione che si registra in tutto il paese, quindi non solo in alcune aree, ma se andiamo a distinguere le grandi ripartizioni territoriali troviamo la stessa cosa. Professore, mi scusi, per parlare di cause, iniziamo dal tema: qualcuno ha scritto e detto, e qualcuno ce lo scrive, è colpa della crisi, però la crisi è iniziata nel 2007 e quindi la tendenza non è stata questa, cioè stiamo parlando di un'anomalia statistica forte solo nel 2015. Sì, allora sicuramente la crisi ha una storia un pochino più remota, però il 2015, che peraltro non è stato un anno particolarmente terribile dal punto di vista climatico, se vogliamo essere sinceri, c'è stata un'estate un pochino più calda, ma non era certo quella del 2003. Secondo me ci sono una serie di fattori che agiscono congiuntamente. Una è, se ricordiamo bene, c'era stato un discorso relativo per esempio alle vaccinazioni. Le vaccinazioni nell'inverno precedente, quindi fine 2014, erano a rischio perché c'era qualche paura rispetto addirittura al fatto che facessero morire. Quindi è possibile che molti anziani non si siano vaccinati, e questo naturalmente poi ha provocato successivamente, con l'arrivo dell'inverno, delle conseguenze negative in termini anche di sopravvivenza. Altri effetti, sì, può essere che la crisi di per sé non sia determinante, però certamente da più voci che ho sentito, anche parlando con soggetti del sistema sanitario, si ha la sensazione che qualcosina sia peggiorata, ed è peggiorata soprattutto in corrispondenza di quelle fasce di popolazione più fragili e anche meno in condizioni di sostenere dei costi presso strutture private. Quindi alla fine, insomma, infatti glielo dico, qualcuno ci sta chiedendo: l'aumento della mortalità può essere dovuto ad un maggiore costo delle cure mediche? Sì, secondo me potrebbe essere più che sul costo, sul fatto che ristrutturando, mettendo i tetti, facendo i tagli, alcune categorie che avrebbero beneficiato di alcune prestazioni le hanno posticipate, non hanno fatto l'intervento, l'analisi, o comunque era in programma, ma è in programma fra 2 anni, e essendo persone anziane e fragili è possibile che ci sia stato un aggravamento e conseguentemente poi l'effetto letale. Altra domanda di un ascoltatore, la prima è arrivata via WhatsApp, questa arriva via SMS: è stata calcolata l'incidenza dell'invecchiamento della popolazione? Immagino di sì, professore, è il suo mestiere, no? Sì, allora è chiaro che la prima cosa che è venuta in mente dice: oibò, siamo più anziani, quindi c'è più rischio. Però le dico, se noi calcolassimo l'effetto a livello nazionale, l'effetto derivante dall'invecchiamento della popolazione, quindi tenendo conto del rischio di morte per età in una popolazione che ha soggetti più anziani, delle 70.000 circa morti in più che si vanno a immaginare, se ne possono spiegare un 15.000, non di più. Quindi il resto rimane un mistero, comunque legato a quei fattori di cui abbiamo parlato prima. La ringrazio, grazie al professor Giancarlo Blangiardo, e andremo a vedere a fine anno appunto se questa tendenza si confermerà e eventualmente saremo un po' più di chiarezza sulle cause. Noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa solamente per la pubblicità, non ci ritroviamo per la borsa perché oggi i mercati sono chiusi, almeno quelli italiani. Ci ritroviamo subito dopo, torneremo a parlare di Pompei, oggi nell'inaugurazione delle 6 Domus c'è questo problema sollevato da Confesercenti che dice Pompei dovrebbe rimanere aperta anche il 25 dicembre e anche il 1 di gennaio. Parliamo anche di questo tra poco. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, e con voi, come avete sentito, anche alla vigilia di Natale. L'ultima notizia appena arrivata, ve lo ricordiamo perché l'abbiamo data in apertura, è il fatto che anche Roma ha proclamato il blocco del traffico dalle 10 alle 16 nelle giornate di lunedì e martedì prossimo, lunedì 28 e martedì 29, quindi se siete romani e siete in giro quel giorno, ricordatevene. Torniamo a Pompei e torniamo dalla nostra Laura Viggiano, perché hanno parlato sia Franceschini che Renzi a questo punto nella giornata dell'inaugurazione delle 6 Domus restaurate. Per un aggiornamento, Laura, eccoci di nuovo, buongiorno. Sì, buongiorno. La cerimonia è finita da pochi minuti, il premier Renzi e il ministro Franceschini sono già andati via dalla Basilica dell'Antica Pompei, dove si è svolta appunto la presentazione del restauro di 6 Domus, e al termine della cerimonia abbiamo avuto anche conferma, insomma, che secondo gli accordi fatti con l'Unione Europea è scampato il pericolo del disimpegno di fondi, e quindi c'è stata, diciamo, anche se la definiamo in maniera propria dal punto di vista tecnico, una sorta di proroga sulla rendicontazione della spesa, e l'accordo prevedeva una spesa, insomma, di circa 40 milioni di euro. Secondo quanto ci ha detto il generale Nistri al termine del suo mandato, tra l'altro per l'incarico straordinario che ha ricevuto per il grande progetto di Pompei, i soldi, insomma, sono stati spesi secondo gli accordi, e dunque diciamo che c'è una notizia che ci dà ufficialmente. Grazie a Laura Viggiano per questo aggiornamento. Restiamo a Pompei, saluto Agostino Ingenito, che è presidente di Aigo Confesercenti. Buongiorno Ingenito, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Avete fatto un presidio e avete protestato perché dite il 25 dicembre e il 1 gennaio Pompei non può restare chiusa. Ed è proprio così, sembra assurdo che nel paese del turismo culturale, nei giorni di festa, quando ci sono tanti flussi di turisti, non ci sarà la possibilità di poter visitare questi siti culturali. Non si tratta solo di Pompei, lo ricordo, in Campania come in tante altre regioni sono chiusi gran parte dei siti culturali gestiti dalle sovrintendenze. Se ci mette anche quelli gestiti da regione e provincia, praticamente è come dire chiuso per ferie nel periodo più importante del turismo, del periodo. Allora Ingenito, però la polemica voi la sollevaste anche l'anno scorso, e il ministro dei beni culturali Dario Franceschini vi rispose con i numeri dicendo l'anno scorso a Natale andarono, l'anno precedente, quindi nel 2013, a Natale andarono a Pompei 827 persone contro le 15-20.000 di ogni prima domenica del mese, e a Capodanno 2.300. E capisce che con questi numeri è anche comprensibile che si decida di non tenere aperto, no? Guardi, è la visione dell'insieme. Intanto il ministro dimentica che il turismo non è solo quello di massa, ma è anche e soprattutto in questo periodo quello individuale, quello del last minute, scelto all'ultimo momento da individui che decidono da sé la vacanza. Se lui riesce con i tour operator a fare un accordo per mandare non si sa dove questi turisti che vengono in questo periodo, nel turismo di massa, è un conto, ma non si può non ragionare con una visione imprenditoriale, perché il sito culturale rappresenta il nostro paese. Lei che cosa direbbe? Appunto, dico, no, però Ingenito, mi scusi, se dovessi ragionare in un'ottica imprenditoriale, dico che l'apertura di Pompei con straordinari dei, o col pagamento del 25 dicembre che dovrò fare, che sarà doppio o triplo ai custodi, non vale quelle 827 persone, che sono una frazione infima di quelli che ci vanno normalmente di domenica. E quindi, come dire, in ottica imprenditoriale, Franceschini vi risponde, dice no, ma insomma non ne vale la pena. Ma lei sa benissimo però che anche parliamo di siti culturali eccezionali per il nostro paese, e ogni recensione, il ministro è molto attento alle recensioni online, negativa, sa cosa può significare invece poi per il nostro turismo, per cui un imprenditore lungimirante fa anche investimenti che in qualche modo possono apparire in un primo momento non redditizi. Nel caso di specie, lei tenga conto che il turismo individuale oggi rappresenta una fetta importantissima per la nostra economia. e la nostra regione, soprattutto la Campania, dove io sono anche presidente regionale della categoria, non può permettersi di avere siti culturali chiusi. E secondo lei, le faccio quest'ultima domanda, è questa: secondo lei si riesce a tenere aperta Pompei e penso per esempio anche al Colosseo, che anche è chiuso il 25 di dicembre e il 1 gennaio, si riescono a tenere aperte in quei giorni o, come dire, gli ostacoli sindacali rischiano di essere tantini? Guardi, credo che si possa far tutto. Da quando il ministro portò al governo un decreto con il quale precettava ai sindacalisti se facevano assemblee sindacali o scioperi, io credo che invece sia possibile farlo e sicuramente si può trovare un accordo. È abbastanza assurdo, le ribadisco, che in un paese come quello che il nostro, che vive di turismo culturale, si sia chiusi nei giorni di festa, soprattutto quelli che rappresentano flussi turistici importanti. Sì, per avere un altro aspetto, un ascoltatore ci fa notare via WhatsApp, dice: ma se i turisti sanno che è aperto vanno, altrimenti stanno a caso, spostano ad altro giorno, ma nel 2013 sapevano che era aperto. Comunque grazie ad Agostino Ingenito, che è presidente di AIGO Confesercenti, per essere stato con noi. E visto che parliamo di turismo, parliamo di chi non se la passa tanto bene in questo settore. È un anno, quello che sapete, come sapete, soprattutto se state andando in montagna, che è senza neve. Le principali piste da sci del paese sono aperte, ma siamo andati a fare un giro, a sentire un po' che cosa succede. Iniziamo dal Trentino Alto Adige. Stefania Irsare del Consorzio Turistico dell'Alta Badia l'ha intervistata Edoardo Sirignano. In Alta Badia praticamente abbiamo aperto gli impianti già il 4 di dicembre grazie all'innevamento artificiale e al momento abbiamo 45 impianti aperti, che sono un totale dell'84% degli impianti, per un totale di 95 km di piste. Praticamente tutti i paesi dell'Alta Badia, partendo da Badia, La Villa, San Cassiano, Corvara e Colfosco, sono collegati sia ai piedi come anche tutti i collegamenti con gli altri comprensori del Dolomiti Super Ski attorno al gruppo del Sella. Grazie al nuovo sistema di innevamento artificiale veramente di ultima generazione, per noi non è stato un problema innevare le piste in modo artificiale. Chiaramente la neve dal cielo manca, però siamo riusciti ad aprire più del 70% delle piste. E passiamo in Val d'Aosta adesso. Corinne David del Consorzio Sciistico di Courmayeur evidenzia come il 25 apriranno nuove piste, le festività sugli sci sono garantite. A Courmayeur si scia, gli impianti evidentemente non sono tutti aperti. Abbiamo 9 impianti aperti su 18, quindi una situazione di parziale aperto. Invece risulta tutto aperto della nuova funivia di Skyway. Il nuovo impianto sta attirando parecchia clientela italiana e straniera, quindi stiamo avendo un buon risultato. Poi le somme si potranno tirare soltanto dopo le feste, siamo fiduciosi. Anche se la neve è poca, io penso che vada bene, il trend è positivo. Sì, siamo pronti ad accogliere tutti i nostri ospiti e cercando di proporre alternative, perché Courmayeur non è solo sci, certo lo sci è importante, ma comunque le attività non mancano. Non così male dunque, non così male nemmeno a Cortina, dove aumentano i visitatori provenienti dall'estero. Le previsioni per il 2015 sono migliori rispetto a quelle dell'anno precedente. Gianfranco Palamini è direttore del consorzio sciistico. Effettivamente aspettiamo ancora, diciamo, i vacanzieri, che normalmente la massa arriva al 26-27. C'è già un discreto movimento da ieri dei primi arrivi e quindi vediamo già una certa movimentazione, per cui pensiamo che come premesse siano buone. Ma oddio, è una situazione un po' diversa. L'anno scorso avevamo problemi di neve perché nel periodo antecedente le vacanze di Natale aveva piovuto, poi c'era stata una imbiancatura di una ventina di centimetri proprio per le vacanze natalizie, cosa che invece quest'anno abbiamo una situazione completamente diversa. E prima di chiudere dedichiamo un minuto ad una leggenda che riguarda Babbo Natale. Non sulla sua esistenza o meno, fossero in ascolto i miei figli, esiste, ma la leggenda su come è vestito. È davvero vestito di bianco e rosso e perché? sono musiche di spot diventate ormai classici delle feste. Basta cantare Oh Happy Day, che è un canto da Capodanno solo a causa di una vecchia pubblicità dello spumante, A Natale Puoi o Vorrei Cantare Insieme a Voi, che sappiamo essere un antico spot della Coca-Cola. E a proposito della bevanda con le bollicine, torna come ogni anno la leggenda metropolitana. Babbo Natale è bianco e rosso perché sono i colori della Coca-Cola. Ma il nostro Santa Claus era vestito di bianco-rosso da molto prima. Clement Clark Moore, scrittore e linguista di New York, nel 1823 scrisse la poesia A Visit from St. Nicholas, nella quale lo rappresentò come un elfo rotondetto con barba bianca, vestiti rossi orlati di pelliccia, alla guida di una slitta trainata da renne. Per il Natale del 1862 l'illustratore Thomas Nast raffigurò sulla rivista statunitense Harper's Weekly Babbo Natale con giacca rossa, barba bianca e stivali. I disegni di Haddon Sumblom per la Coca-Cola risalgono al 1931. Peraltro, a usare Babbo Natale come testimonial non era stata nemmeno la prima bibita. Fu la White Rock Beverages per la vendita di acqua minerale nel 1915 e il Ginger Ale nel 1923. E quello raffigurato era esattamente il Babbo Natale che aspettiamo noi questa notte. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade, poi Mario Platero, una risposta ad un ascoltatore, e non riusciamo a fare una copertura territoriale completa, e quindi per questa volta delle piste della Valtellina non ci siamo occupati delle piste della città della Valtellina, ce ne dispiace. Ci fermiamo, c'è il traffico. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.